me ne intendo, preferisco stare zitto invece di parlare di ciò che non conosco. Mettimi da parte, non ho niente da dire, è un soggetto troppo vasto, a mio modo di vedere. Troppe le domande, io non ho risposte, io navigo nel buio più totale. Troppi aprono la bocca per non parlare, per far credere di sapere, per non dire. Io non me ne intendo, preferisco stare zitto invece di parlare di ciò che non conosco. Lasciami guardare, lasciami ascoltare, che ho ancora molto, molto da imparare. Certo che se vedo che giochi col mio naso, lascio passo inchiodo, per me il tempo è sacro. Preferisco ascoltare il vento, vedere il tramonto, virgola due punti, vado a capo e chiudo. Io non me ne intendo, preferisco stare zitto invece di parlare di ciò che non conosco. Il mondo è troppo pieno di sapienti e sapientini che stanno lì a scaldare sedie e seggiolini. Quante volte ho visto ciarlatani sputare il rospo, stanno a litigare per non dire un cazzo. Troppi talk show per i cretini, troppi canali senza pesciolini. Me ne intendo, preferisco stare zitto invece di parlare di ciò che non conosco. Mettimi da parte, non ho niente da dire, è un soggetto troppo vasto, a mio modo di vedere. Troppe le domande, io non ho risposte, io navigo nel buio più totale. Troppi aprono la bocca per non parlare, per far credere di sapere, per non dire. Io non me ne intendo, preferisco stare zitto invece di parlare di ciò che non conosco. Lasciami guardare, lasciami ascoltare, che ho ancora molto, molto da imparare.